quanto inverno ha, quanto inverno ancora. Fuggi ogni volta e mastichi amaro, goccia di ghiaccio ritorna acqua. Di fiele che termina.